Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 2 febbraio ed è la prima delle due edizioni, 6.30, 13.30, di Italia in controluce, che raccontano la politica, la cronaca italiana, il costume, la cultura, lo spettacolo. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Puntata speciale dedicata alle inchieste che fanno luce sul rapporto tra talpe insinuate all'interno dei gangli dello Stato e la criminalità organizzata. Il reportage di Raffaella Calanda. Dicono che le talpe prima scavino le loro gallerie, poi passino il tempo ad accumulare i lombrichi necessari per la sopravvivenza. Dicono che le talpe non vadano mai in letargo e le talpe sotto un palazzo di giustizia minano le stesse fondamenta perché vivono a metà tra il mondo di sopra e quello di sotto. Abbiamo ascoltato in diretta il boss che cercava la microspia a casa sua. Era evidente che qualcuno gliel'avesse potuto dire. Da quella notizia è iniziata un'altra inchiesta che poi ha portato a individuare chi lo avesse aiutato attraverso una catena di informazioni che partiva da appartenenti alle forze dell'ordine infedeli, transitava attraverso esponenti politici e arrivava appunto al capomafia di Brancaccio. Maurizio De Lucia, ora alla Procura Nazionale Antimafia, è stato uno dei PM a Palermo nel primo processo alle cosiddette talpe nella direzione distrettuale antimafia. Un processo delicato, concluso con i cancelli del carcere di Rebibbia spalancati per la prima volta ad un senatore in carica, Salvatore Cuffaro, condannato per mafia, perché attraverso un assessore fece arrivare a Gutta d'Auro, boss di Brancaccio, notizie di una microspia. C'è chi avvisa dunque i clan delle intercettazioni, chi li avverte degli arresti e chi li copre. Sono le cosiddette talpe istituzionali, presenti con le loro gallerie scavate in quel famigerato terzo livello che rende le cosche così potenti. E quando la fanno questa operazione a Milano? Di preciso non lo sappiamo, ma lo sapremo. E una settimana prima io vi dico tutto. Da una parte il boss, dall'altra la talpa, da una parte Giuseppe Pelle, dall'altra Giovanni Zumbo, da una parte un uomo di 'Ndrangheta, dall'altra uno vicino alle istituzioni, un commercialista già custode proprio dei beni sequestrati dai giudici. È uno spaccato di eccezionale gravità. Zumbo, per usare le sue stesse parole, scrivono i PM nella richiesta d'arresto, fa parte di un sistema più vasto, rivela informazioni che riesce a procurarsi con una sconcertante facilità. A coordinare le indagini, tanto sui boss quanto sui loro informatori, il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Quello è un caso classico di, non è solo 'Ndrangheta, abbiamo un commercialista che godeva anche della fiducia della magistratura che gli aveva affidato la custodia dei beni sequestrati, a cui personaggi che fanno parte evidentemente degli apparati della sicurezza o dell'arma dei carabinieri, perché erano questi ad avere di esclusiva le notizie sulle indagini che Zumbo si procura e che va a riferire a quel Pelle Giuseppe, cioè a uno dei grandi boss dell''Ndrangheta. Questo è un caso veramente inquietante di collusione fra organizzazione 'ndranghetista e apparati dello Stato. Microspie, filmati, un bordello, sanno tutti i cazzi nostri, commentava Pelle, dopo essersi informato su chi ci fosse nell'elenco delle persone da arrestare nel maxi blitz tra Reggio Calabria e Milano. Tutte notizie che loro ricevevano in tempo utile a prendere provvedimenti. Tutte notizie che, bloccando la via agli investigatori, la spianano alle latitanze. E non a caso Zumbo definì una disgrazia l'arresto di Pasquale Condello, il vecchio boss di 'Ndrangheta. Io gli ho detto, non lo prendete, riferisce Zumbo. Ma a chi l'ha detto? Involontariamente è lui stesso a far trapelare la presenza di altri. Lui che stava anche dietro quell'auto piena di armi fatta ritrovare nel giorno della visita a Reggio del capo dello Stato. Lui che aveva un canale perfino con l'intelligence. E chi c'era dietro di lui? Dalle stanze di Falcone a quelle di Borsellino fino all'ufficio di Nicola Gratteri, la storia dell'antimafia è piena di cimici, bonifiche e collaboratori infedeli. Collaboratori accusati a volte di vendersi anche per un'auto di lusso, come si contesta ad un colonnello dei carabinieri già nell'antimafia regina, arrestato prima di Natale. Ad occuparsi ora di questa indagine e prima anche di quella delle talpe palermitane, il procuratore aggiunto Michele Prestipino. Le infiltrazioni nella società sul territorio, negli apparati e le istituzioni. Questo è un fatto concreto che abbiamo verificato ricostruendo sia in Sicilia che in Calabria l'attività di diverse famiglie mafiose, una presenza che si alimenta e si nutre di favori fatti, di favori ricevuti. Quando si fa riferimento al fenomeno talp, al fenomeno traditori, tradimento, che è una parola che abbiamo usato anche in passato con riferimento all'indagine palermitana delle talpe, si fa riferimento a un fenomeno complesso dentro al quale stanno insieme dalla corruzione spicciola fino a fenomeni più complicati, più alti. C'è il fenomeno corruzione, ma c'è il fenomeno anche di controintelligence sull'attività dello Stato, che è quella più pericolosa. Se Cuffaro è appena entrato in carcere, altri ex politici stanno scontando analoghe pene. Il procuratore Maurizio De Lucia. Occorre evidentemente un controllo dei funzionari pubblici, e ci metto anche i magistrati naturalmente. Penso ad esempio al controllo costante dei loro patrimoni e del tenore di vita, perché è chiaro che le organizzazioni possono minacciare per avere informazioni, ma preferibilmente possono svolgere attività corruttive. In che modo queste fughe illecite, diciamo, di notizie così riservate sono anche una delle ragioni delle lunghe latitanze di Boss? Certo, se noi collochiamo una microspia, il capomafia viene informato, tutta un'indagine, quindi non è soltanto un allungamento dei tempi, ma è un dispendio di energie, di mezzi, di denaro, viene vanificata. Del resto, in un mondo in cui l'informazione è tutto, informazioni riservate come queste hanno un valore assoluto, soprattutto per i capimafia. E questo chiaramente rende questi pezzi infedeli anche dello Stato complici delle lunghe latitanze. Qualcuno li ha definiti traditori e penso che sia il termine più appropriato. È nelle gallerie delle talpe, dunque, che ci sono anche parte delle spiegazioni delle lunghe latitanze dei boss. La prima edizione di Italia in Controluce, Radio 24 Italia in Controluce, lo trovate su Facebook, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it, sul sito radio24.it, il blog di Italia in Controluce. La mia voce torna oggi 13:30 puntuale su Radio 24 con altre storie.